Salva Danaio. Le 12:17 minuti di venerdì 7 maggio 2010, ultimo appuntamento della settimana con Salva Danaio. Bentrovati da Roberta Pellegatta, insieme come ogni giorno fino alle 13 con argomenti che interessano il nostro portafoglio, gli investimenti, le pensioni e oggi in particolare anche il lavoro, perché in questo appuntamento parliamo dei buoni lavoro per lavoro occasionale accessorio, detti comunemente voucher. Già diffusi in altri paesi europei, questi voucher sono arrivati anche in Italia, dove negli ultimi due anni ne sono stati venduti circa 4 milioni e mezzo di pezzi. Ma cosa sono? Sono un sistema di pagamento per quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto che abbiano carattere di saltuarietà. Una forma di retribuzione, insomma, per quei lavoretti che di norma vengono fatti in nero. Pensiamo ad esempio quando il figlio del vicino viene a tagliarci il prato, quando abbiamo bisogno di una babysitter, di un dog sitter, di ripetizioni, oppure pensiamo alle vendemmie o ai lavori agricoli saltuari, e si potrebbe continuare a lungo. Ebbene, attraverso questi buoni, il cosiddetto committente, quindi chi richiede il servizio, può pagare il lavoratore con questo buono che comprende già le quote INAIL e INPS, quindi al lavoratore vengono garantite queste tutele, mentre il datore di lavoro, diciamo, con il buono assolve i suoi obblighi senza troppi problemi, senza dover stipulare contratti, effettuare comunicazioni e così via. Ma come funzionano questi buoni lavoro? Dove si recuperano? Chi ne può beneficiare? Ne parliamo oggi con un esperto che chi segue Salva Danaio conosce benissimo, perché viene spesso a parlare di pensioni, è Sergio D'Onofrio, docente di legislazione sociale presso l'Università LUMSA di Roma ed esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Ben trovato. Buongiorno a tutti. E poi con noi al telefono c'è Livia Ricciardi, al Dipartimento Politiche del Lavoro CISL Nazionale. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, se c'è qualcuno all'ascolto che ha già usufruito dei buoni lavoro, che li ha usati, li sta usando, sia come committente che come prestatore, ci chiami e ci racconti la sua esperienza. Il numero è gratuito per le telefonate, 800 24 00 24, c'è anche un numero per gli sms, 349 238 6666, naturalmente graditissime anche le domande, perché ne avete sempre interessanti, per cui ci aiutate ad arricchire il nostro programma. Prima di spiegare come funzionano i buoni lavoro, uno sguardo alle borse. Questa mattina mercati incerti dopo il panico diffuso ieri, il tracollo dei titoli bancari. Dopo un'apertura in rosso, Milano ha girato a rialzo per poi scendere di nuovo. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti dal collega Guido Maurino di Radio Cor. Buongiorno. Buongiorno. Qual è la situazione adesso? Ma è ancora una giornata molto volatile in borsa, gli indici sono andati abbastanza sull'ottovolante, soprattutto Milano che aveva aperto molto male, poi ha recuperato e adesso sta guadagnando, con FTSE MIB che guadagna lo 0,31%, il FTSE All Share lo 0,16%. Diciamo subito che per quello che riguarda Milano il merito è soprattutto del settore bancario, infatti oggi Moody's ha parzialmente corretto il tiro rispetto a ieri, quando aveva lasciato intendere un possibile rischio contagio della crisi greca all'Italia. L'agenzia ha spiegato oggi in un convegno che in realtà l'Italia è stata relativamente al riparo nell'ultimo biennio, perché il suo sistema bancario era meno esposto di altri alle turbulenze internazionali. La conseguenza è che oggi UBI Banca guadagna il 4,42%, Monte dei Paschi il 2,36%, bene anche Unicredit che guadagna il 2,08% e Intesa San Paolo il 2,03%. Oltre ai bancari, altri titoli in evidenza? Ma in realtà sono soprattutto i bancari oggi i titoli in evidenza, e sono soprattutto i bancari italiani, perché ad esempio nel resto d'Europa la situazione è molto più incerta. Ci sono anche sul fronte bancario, appunto, c'è HSBC, questo istituto tedesco, che ha annunciato risultati trimestrali positivi e che quindi guadagna molto bene, ma ci sono anche altri titoli ancorati sulla parità. I cambi in chiusura? Sì, per quello che riguarda i cambi, diciamo subito che l'euro recupera leggermente, si attesta a 1,27 nei confronti del dollaro, cede invece il passo la sterlina a 1,46 per una sterlina, appunto, vista la situazione di incertezza legata alle elezioni di ieri, che non hanno dato una maggioranza solida al Partito Conservatore. Bene, molte grazie Guido Marino di Radio Cor. Adesso torniamo all'argomento del giorno di Salva Danaio, cioè i buoni lavoro per lavoro occasionale accessorio. Buoni Da tempo già diffusi all'estero, i buoni lavoro stanno prendendo sempre più piede anche in Italia, tanto da essere diventati una realtà piuttosto diffusa nel mercato del lavoro. Anche perché la scelta di un impiego nel weekend per una sola giornata o per il periodo delle vacanze è una soluzione adottata sia da giovani che da precari e pensionati intenzionati ad incrementare le proprie entrate. I buoni non sono altro che voucher con un valore nominale di 10 euro, cifra nella quale sono compresi i contributi INPS alla gestione separata, la quota INAIL per l'assicurazione infortuni e una quota per la gestione del servizio da parte dell'INPS. Utilizzati per la prima volta nel 2008 per pagare le persone impiegate nella vendemmia, sono stati in seguito allargati ad altri campi fino ad arrivare alla finanziaria 2010, che ne ha di fatto ampliato l'utilizzo per qualsiasi tipo di attività, dalle scuole alle imprese agricole, dagli enti locali alle università. Approfondiremo questi aspetti. Dottor D'Onofrio, lei ha avuto modo di scrivere su questo argomento su Sole 24 Ore, proprio rispondendo ai quesiti dei lettori, quindi oggi avrà modo di rispondere anche a quelli degli ascoltatori di Radio 24 che già stanno scrivendo al 349-238-6666, possono anche chiamare l'800-24-0024. Sicuramente quella dei voucher è una buona possibilità per i committenti di assolvere agli obblighi di legge senza troppe formalità, in maniera agevole, diciamo. Sì, certamente, perché ecco, poi come si diceva del resto anche nell'introduzione nella scheda, è un modo anche per portare alla luce del sole, far uscire dal nero tutta una miriade di attività, quindi i vantaggi sono evidenti, il committente, datore di lavoro, come lo vogliamo chiamare, non deve stipulare un contratto, può acquistare questi buoni, tra l'altro tra un po' anche in tabaccheria, già in corso una sperimentazione in sei regioni italiane, e quindi il vantaggio è evidente, tra l'altro anche per chi riceve il buono, perché appunto è tutelato sia per quanto riguarda l'assicurazione pensionistica che per quella contro gli infortuni, e poi è anche un compenso che arriva esentasse. Fermo restando che deve sempre trattarsi di una prestazione occasionale ed accessoria, come la definisce la legge, cioè non può in alcun modo sostituirsi a quello che è un contratto di lavoro dipendente o autonomo previsto dalla nostra Facciamo legge. Facciamo qualche esempio pratico degli ambiti in cui si possono utilizzare questi buoni. Abbiamo già parlato, ad esempio, babysitter, dog sitter, questo sicuramente, ad esempio. Sì, sono effettivamente una galassia, basti pensare adesso che proprio recentemente appunto l'INPS ha detto che possono essere utilizzati ad esempio anche negli stadi per diciamo avvalersi di steward, cioè quelle persone che hanno il compito appunto ecco di dirigere diciamo il traffico degli spettatori prima che arrivano agli spalti. E così tante altre attività, maneggi, scuderie, insomma veramente ecco, direi che si copre l'intero arco di quelle attività diciamo che vengono svolte però comunque in modo saltuario. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro che comprende la contribuzione alla gestione separata INPS e poi anche l'assicurazione INAIL, quindi alla fine il valore netto è di 7,50 euro. Certamente, questo buono poi si può riscuotere con tutta facilità presso tutti gli uffici postali, quindi il prestatore basta che lo convalida con la sua firma e può riscuoterlo presso tutti gli uffici postali. Dottoressa Ricciardi, quali sono i limiti di utilizzo? Cosa fare attenzione? Ma intanto c'è un limite di utilizzo legato diciamo al compenso, vuol dire che per il lavoratore l'attività di natura accessoria, il lavoro accessorio, non può dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dello stesso anno solare da parte del singolo committente. Quindi diciamo, questo è il primo vincolo diciamo così, quantitativo riferito al compenso. Poi diciamo c'è un vincolo rispetto alle attività che si possono svolgere, non era del tutto precisa la scheda iniziale, mi spiego meglio, diciamo che c'è stato un allargamento sicuramente a tutte le imprese rispetto a quando il voucher è stato introdotto, è uno strumento che esiste sulla carta da diversi anni, addirittura risale alla legge Biagi, che aveva appunto introdotto il lavoro accessorio. Nasceva per le famiglie e gli enti senza fini di lucro, quindi in realtà per i lavoretti, quelli che ha citato lei giustamente, faceva buoni esempi, la babysitter, il dog sitter, quello che ci viene a tagliare il prato, quindi nasceva esattamente con quello scopo. Sappiamo che nelle famiglie e negli enti senza scopo di lucro c'è tantissima diffusione del nero per questi lavoretti, però poi via via è stato allargato anche alle imprese, a tutte le imprese, ma non per tutte le attività, cioè nell'ambito quindi di famiglie ed enti senza fini di lucro, ma anche nell'ambito delle imprese c'è un elenco di attività che la legge riporta, che sono appunto che possono essere svolte con il voucher. Io non le elenco tutte, però diciamo le principali: lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, le ripetizioni, le manifestazioni sportive, culturali, le fiere. C'è stato un notevole allargamento, questo è positivo o no secondo lei? Ma guardi, allora diciamo che leggere l'elenco delle attività, a leggere l'elenco delle attività, devo dire, sono attività per le quali effettivamente tutti sappiamo, ed è inutile negarcelo, che c'è, insomma, sono attività che vedono una certa diffusione, anzi a volte una elevata diffusione del lavoro sommerso, quindi ben venga lo strumento che consente di farlo emergere. Il fatto che insomma ma anche una grande azienda per alcune attività possa utilizzare il voucher, io come dire, questa è una trasmissione di servizio, non stiamo qui adesso neanche a dare valutazioni di tipo politico, però insomma come CISL un tantino di preoccupazione per quanto riguarda le grandi aziende, certamente. I voucher per il lavoro occasionale accessorio, di questo ci stiamo occupando nell'appuntamento di oggi di Salva Danaio con Sergio D'Onofrio, esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore, Live Ricciardi, che tra l'altro è tra gli autori della guida al lavoratori 2010 di Edizioni Lavoro. I buoni lavoro, riassumendo per chi si fosse sintonizzato su Radio 24 solo ora, sono uno strumento nato già con la legge Biagi nel 2003, utilizzati per la prima volta in via sperimentale per la vendemmia del 2008 e ormai entrati nel mercato del lavoro. Si tratta di buoni che retribuiscono le collaborazioni occasionali o temporanee pagando i dovuti contributi INPS e INAIL. Quindi vengono di norma usati per pagare quei lavoretti saltuari di solito retribuiti al nero. Ecco, dal 2008 oggi ne sono stati venduti oltre 4 milioni e mezzo per circa 55.000 lavoratori. Dottor D'Onofrio, credo che dobbiamo specificare per chi valgono questi buoni, perché per esempio un ascoltatore via SMS al 349-238-6666 scrive: ma i lavoratori che possono fruire dei buoni devono essere disoccupati? No, non per forza, però anche i disoccupati li possono usare. Sì, certamente, qui bisogna però fare una distinzione. I buoni non possono essere utilizzati dai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno, ad esempio. Quindi, in sostanza, il buono però dei pensionati sì, per esempio, a persone che non hanno un'occupazione stabile. Quindi si tratta, come parte abbiamo ricordato, di giovani, di pensionati, di casalinghe, intese per tali quelle persone, anche uomini al limite, che si occupano soltanto diciamo dell'andamento della casa. Senta, per esempio le persone in cassa integrazione? Giustamente viene fatta questa domanda. Se ne può, si possono avvalere dei buoni, quindi possono lavorare con i buoni anche le persone in cassa integrazione o che comunque percepiscono indennità di disoccupazione o trattamenti a sostegno del reddito, tra i quali anche quelli in deroga varati con gli ultimi provvedimenti anticrisi. C'è però una differenza tra queste categorie, cioè tra casalinghe, pensionati, giovani, i quali, appunto come poi veniva ricordato prima dalla dottoressa Ricciardi, possono avere, diciamo, ricavare dai buoni 5.000 euro all'anno da un singolo committente, quindi anche 10.000, 15.000 se lavorano per più committenti, mentre per i cassi integrati e i disoccupati il limite è di 3.000 euro cumulativo, cioè anche se lavorano per più committenti non possono superare questo tetto dei 3.000 euro. E queste sono le differenze. Velocemente parliamo anche degli studenti, in questo caso c'è un limite di età, 25 anni? Esattamente. Questo vuol dire che uno studente fuori corso che di anni ne ha 26 non è escluso? È escluso, sì, perché appunto è una, così, è una formula che si rivolge soprattutto ai giovani. Va bene. 800 24 00 24, abbiamo in linea Omero da Terni, buongiorno. Sì, buongiorno. Devo dire che alla fine le risposte di cui avevo bisogno me le avete già date tutte, nel senso che io chiedevo la possibilità di dare di utilizzare questi voucher per disoccupati o comunque per casse integrati, e mi sembra di capire comunque che per chi ha già un lavoro o comunque è in cassa integrazione ci sono delle limitazioni in questo. Come abbiamo detto, sì, il dottor Donofrio ha specificato anche le differenze. Comunque tutto quello che diciamo è poi riascoltabile in internet al sito www.radio24.it. Omero, voleva aggiungere qualcosa? No, volevo un'unica domanda. Nel caso in cui un lavoratore sia in cassa integrazione limitata a un giorno a settimana, in quel giorno può essere utilizzato con pagamento in voucher? Sergio Donofrio. Sì, la risposta è positiva, nel senso che nell'arco dell'anno solare però, ecco, non si deve superare con i buoni il tetto dei 3.000 euro. Senta, dottor Donofrio, Clarissa da Nerviano scrive: questi voucher possono essere usati anche se, per esempio, chiamo un mio amico disoccupato attualmente per farmi tinteggiare la casa? Direi di sì. Certamente, certamente. Va bene. Un'altra domanda: i buoni lavoro possono essere utilizzati anche per posizioni impiegatizie o tecnico-commerciali? No, questo appunto, come ricordava prima la dottoressa Ricciardi, cioè questo tipo di attività con i buoni riguarda sempre attività di tipo saltuario, quindi si presuppone che un'attività di tipo impiegatizio abbia, diciamo, una certa continuità e quindi per questo tipo di attività è necessario un altro tipo di contratto, magari a termine, magari part time, eccetera. Ma ci sono altre possibilità. Dottoressa Ricciardi, leggo lei il messaggio di Davide da Venezia che dice: secondo la legge io devo assumere una persona con disabilità perché la mia azienda supera le 15 unità. Potrei usufruire dei voucher senza assumere direttamente? Beh, no, il voucher non è sostitutivo, diciamo non è valido ai fini del rispetto delle quote di obbligo di assunzione dei disabili. Questo non è utilizzabile. Lo escludiamo. Certo. Andiamo a Roma da Francesco, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io per quanto riguarda, io anzitutto sono un committente, nel senso che mi uso questi voucher, però quello che ho constatato, io che sono a Roma, per quanto mi riguarda, è la difficoltà a procurarmi anzitutto dei voucher da 10 euro che dice alla sede INPS non esistono, ma a parte quello anche poi il problema della come dire, burocrazia, perché bisogna fare un conto postale e poi comunque sono reperibili esclusivamente alla sede INPS di via Ambaradam. Ah, è interessante quello che ci dice Francesco. Lei non trova quelli a 10 euro, nel senso che li vendono soltanto, diciamo, a pacchetti? Quelli da 20 euro, ma quello non sarebbe un grosso handicap. L'handicap è il problema che in qualunque parte di Roma, che lei deve convenire con me, è molto ampia. Io devo andare un determinato pomeriggio alla settimana a via Madama a prendere questi voucher. Eh sì, non è comodo. Dottor Donofrio, non sono ancora diffusissimi dunque, le risulta allora, nelle sedi INPS? Recentemente l'INPS ha stabilito, proprio per venire incontro a questa esigenza appunto che possono avere diversi committenti, di distribuire i buoni anche nelle cosiddette sedi territoriali, cioè non solo nei capoluoghi di provincia, ma anche nelle sedi di zona, nelle grandi città o in quelle subprovinciali che esistono in molte regioni. Quindi esistono comunque i buoni anche da 20 euro. Io leggendo credevo esistesse solo quelli a 10 euro. No, è possibile acquistare anche dei multipli di 10 euro, perché magari la prestazione, diciamo, richiede diverse ore di lavoro e allora si possono anche acquistare buoni del valore multiplo di 20 o di 50 euro. Benissimo. Sentiamo Emanuele da Roma, che a quanto so ha già utilizzato questi buoni. Emanuele. Sì, sono io. Buongiorno. Io già ne ho utilizzati lo scorso anno per retribuire delle persone che venivano a fare dei lavori in campagna, perché non faccio nero, non lo voglio fare. Benissimo. L'unico problema che ho avuto conto e che praticamente ho trovato, ecco, mi hanno detto anche a me che c'erano dei buoni da 50 euro, però non si trovavano. Quindi io mi sono trovato a retribuire, credo, nell'arco di 4 mesi, 5 persone, alla fine con 3.000 euro, 3.200 euro, erano tutti buoni da 10 euro. Quindi, quindi lei ha avuto paradossalmente il problema contrario? Sì, per lei sono tagli da 10? Solo da 10, quelli da 50 non mi è riuscito a ritrovarli, ma non c'ero in nessun modo, ho cercato in più due posti ma non mi è riuscito a ritrovarli, tutti quanti dicevano che c'erano ma non erano disponibili. Ho compreso, la ringrazio molto, insomma a Tordonofre quando arriveranno in tabaccheria speriamo che ci siano tutti i tagli. Ma indubbiamente in questa prima fase ci possono essere state delle difficoltà perché magari in alcune province ci sono dei picchi di richiesta che non si verificano in altre. Ecco, con l'entrata in funzione di 5.000 tabaccherie, questa diciamo è la convenzione che l'INPS ha stipulato con la Federazione Italiana Tabaccai, la situazione dovrebbe migliorare rapidamente. Lei diceva che è uno strumento che viene utilizzato, pensato soprattutto per i giovani, sa che invece dagli ultimi dati risulta che a utilizzarlo sono stati soprattutto gli over 65, quindi pensionati, nel 60% dei casi. Indubbiamente i pensionati costituiscono una platea molto ampia di persone che hanno disponibilità di tempo e che hanno peraltro interesse anche a dedicarsi a attività non di tipo continuativo per ovvi motivi. Poi c'è da considerare che per il pensionato il buono è che è esentasse e questo vale per tutti, per loro è maggiormente redditizio perché non tutti sono impegnati in attività di tipo continuativo, collaborazioni di lunga durata e così via. E poi se questa prestazione è reiterata, il contributo che è incorporato nel buono è valido anche per dare una piccola aggiunta di pensione. Qualcuno ci chiede se c'è un limite di età, l'unico credo l'abbiamo detto, no? Quello per gli studenti sotto i 25 anni. Esatto, ma per i pensionati non esiste alcun limite di età. O per le persone disoccupate, le casalinghe, eccetera, no. Non ci sono altri limiti in questo senso. Mauro da Brescia chiede, sono validi nel settore vendite occasionali? Sì, me lo conferma. Sì, sempre che si tratti appunto di una prestazione di tipo accessorio, perché se si tratta ad esempio di vendita porta a porta, ecco, ad esempio sono validi per le vendite di giornali, che quelle persone che noi incontriamo spesso la mattina all'incrocio dei semafori, però se si tratta di una vendita porta a porta, allora lì scatta un altro tipo di contratto, è una collaborazione, è un lavoro coordinato continuativo, è un lavoro a progetto. I buoni lavoro, i cosiddetti voucher, sono il tema di oggi di Salva Danaio. Una domanda per la dottoressa Ricciardi. Stefano da Milano scrive: i buoni possono essere utilizzati per retribuire una persona priva di permesso di soggiorno? Beh, assolutamente no, se non c'è non sono validi a questo scopo, se non c'è il permesso di soggiorno non possono essere utilizzati. Perché poi non sono buoni anonimi, cioè su questi buoni bisogna scrivere il codice fiscale del datore, il codice fiscale del lavoratore, il periodo di prestazione, forse non l'abbiamo specificato questo ancora. Senta, ma abbiamo ancora fatto una precisazione importante però. Prego. Rispetto al compenso. Perché si è parlato di questi buoni nominali di 10 euro, esistono anche dei buoni multipli, non abbiamo ancora detto che il voucher, cioè il 10 euro, che poi sono 7,5 netti tolta la contribuzione, non questo equivale al compenso di uno. No, non abbiamo detto però che non equivale al compenso di un'ora. È vero. Cioè non c'è l'equivalenza un voucher un'ora. E questo è importante dirlo perché è del tutto evidente che per una serie di lavori, o anche per i cosiddetti lavoretti, ovviamente le ripetizioni le chiamiamo lavoretti, ma non so come dire, il prezzo di mercato, lo sappiamo, è piuttosto superiore del 7,5 euro l'ora, così mentre per altri lavori magari invece può essere può coincidere. Un compenso più adeguato. Quindi diciamo un punto di attenzione a questa questione qui, 7,5 euro può essere adeguato per un'ora di un certo tipo di lavoro, totalmente inadeguato per un altro tipo di lavoro. E l'altra cosa che non abbiamo detto, importante per i lavoratori, è che si conserva comunque lo stato di disoccupazione. quindi diciamo la cosiddetta iscrizione al collocamento, anche se si lavora con voucher. Ecco, mentre... a proposito di questo, sentiamo Giovanni da Roma. Pronto Giovanni? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la possibilità. Grazie a lei. Io sono un programmatore informatico, lavoro in ambito internet, sono dall'inizio dell'anno in cassa integrazione straordinaria e la cosa a quanto pare è stata confermata almeno fino a fine luglio. Mi hanno fatto una proposta per un lavoro, insomma partecipare a dei progetti per applicativi, quindi diciamo dei progetti in corso. Io ho sentito diverse mansioni e tipi di lavoro in cui sono applicabili voucher, però non ho sentito ancora il mio settore, non so se magari possono esserci dei problemi. Dottoressa Ricciardi, ha sentito la telefonata? Era un po' disturbata. Ho sentito la telefonata, ma non è molto chiaro il settore, cioè che tipo di lavoro le hanno offerto. Giovanni. Degli applicativi internet, praticamente dei programmi che girano su internet. Quindi un lavoro di programmazione. Beh, a me esatto. Sembra affatto che questo non è tra le attività che possono essere svolte con il voucher, perché c'è proprio un elenco di ambiti, proprio di attività che prima all'inizio avevo in parte elencato, e quindi sono soltanto alcune attività che possono essere svolte con questo tipo di pagamento, voucher, con questo tipo di lavoro. Sergio... soltanto non c'è il limite alle tipologie di attività, soltanto per gli studenti, i famosi studenti fino a 25 anni. Questo è l'unico caso in cui il vincolo a quell'elenco di attività che dicevo prima non esiste. Infatti gli studenti fino a 25 anni possono essere utilizzati in diversi settori produttivi, e diceva per ora sono stati utilizzati più i pensionati e meno gli studenti, ma devo dire è una novità solo da qualche mese, probabilmente ora con l'estate prevediamo che ci sia un aumento nell'utilizzo. Va bene, Michele da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere un quesito. Noi siamo una società cooperativa a responsabilità limitata e ci occupiamo di servizi di portierato e reception presso aziende. Ecco, volevo chiedere, in caso di malattia o di permessi di questi operatori, è possibile sostituirli con utilizzare questi voucher per fare queste sostituzioni temporanee, chiaramente? Sergio D'Onofrio, in questo caso? Ma qui io chiamerei più in causa Livia Ricciardi, la collega, la dottoressa Ricciardi. A me mi fa fare il cerbero di quella che dice. E certo. Io no, però allora sì, è nuova per tutti l'applicazione dei voucher, però oggettivamente anche questo caso, quando si tratta di aziende, c'è sicuramente l'elenco degli ambiti di utilizzo di cui tenere conto, e anche questo non c'è. Manca. Ci sono davvero tantissimi messaggi di persone che dicono si possono utilizzare per le colf, per i lavori domestici? Allora, sicuramente il lavoro domestico fa invece parte delle attività di utilizzo, però attenzione, allora c'è sempre il limite annuo di 5.000 euro. Allora, quindi attenzione se è un lavoro domestico, quindi di tipo occasionale per un certo periodo, ma il voucher non è assolutamente sostitutivo nel caso di una famiglia che ha una colf fissa, oppure la signora, la badante fissa che è lì tutti i giorni in famiglia per molte ore al giorno, in questo caso siamo assolutamente al di fuori del limite di compenso che dicevo prima. Però quindi, se non si superano questi 5.000 euro? Teoricamente sì, se il compenso non è superiore ai 5.000 euro è da considerare occasionale. Va bene, ricordo il nostro numero verde, forse l'ho ancora fatto in questa parte, 800 24 00 24 349 238 6666 per i messaggi. Enrico ci raggiunge da Treviso, buongiorno. Buongiorno, sì. Volevo avere una risposta un po' più dettagliata sulla procedura per procurarsi e utilizzare questi voucher, perché io li ho utilizzati a dicembre, non come committente ma come un usufruente di questi voucher, e chi li ha, il committente praticamente, che era un privato comunque, è dovuto andare allora primo all'INPS per farsi dare i voucher, secondo imposta per pagarli, terzo mandare un fax, penso, della ricevuta e l'avvenuto pagamento, e poi ovviamente io ho dovuto... Va bene, io la ringrazio per questa domanda, è giusto spiegare i vari step, cerchiamo di farlo velocemente perché altrimenti ci tagliano, perché stiamo davvero quasi fuori tempo massimo. Sergio D'Onofrio, rapidamente. Sì, Allora, a parte diciamo, ecco, la possibilità dell'acquisto in tabaccheria, che nel Veneto diciamo, ecco, da poche settimane è in sperimentazione, la procedura è di due tipi: di tipo telematico, cioè praticamente il committente si accredita sul sito dell'INPS, si registra anche diciamo, il nome dei lavoratori, deve fare poi una, prima dell'inizio dell'attività, una comunicazione preventiva all'INAIL, fermo restando che per l'acquisto dei buoni deve però dimostrare con un F24, con un bollettino di conto corrente postale, che li ha pagati prima. E questo vale anche per l'acquisto di tipo cartaceo, quindi pagamento, ritiro presentando la ricevuta, e anche in questo caso è molto importante la comunicazione preventiva all'INAIL, che può essere fatta anche al numero 803-164 del call center, con un fax o collegandosi al sito dell'ente. Ecco, queste sono le modalità per l'acquisto dei buoni. Benissimo, ha già detto lei il numero verde 803-164, questo numero si possono avere anche tutte le informazioni appunto sugli aspetti normativi, di procedimento, sui servizi insomma di questi buoni. Dobbiamo chiudere qui, mi scuso con gli ascoltatori a cui non riusciamo a dare una risposta, ma potranno riascoltare la trasmissione in internet radio24.it. Grazie a Sergio D'Onofrio, esperto in materia previdenziale Sole 24 Ore, Olivia Ricciardi al Dipartimento Politiche del Lavoro CISL Nazionale. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie. E grazie anche a Gaia Romani e Alessandro Longoni in redazione, a Pietro La Corte in regia. Naturalmente grazie a voi per l'ascolto. Salvadanaio torna lunedì in compagnia di Deborah Rosciani. Da Roberta Pellegatto una buona giornata e un buon fine settimana.